innocente amor tuo. Se mi fia l'amor mio, sarà innocente. Senza la tua pietà, morte il compianto. Pietà si chiede.